Die Wiener Philharmoniker und ich wünschen Ihnen Prosit Neujahr! Thank you. E anche il pubblico si è scaldato. Johann Strauss, figlio, an der schönen blauen Donau, il valzer opera 314, Wiener Philharmoniker, diretti da Christian Thielemann, che ha baciato il primo violino, se non sbaglio, e sta dando le mani alle prime parti dell'orchestra. Siamo in diretta esclusiva per l'Italia, lo ricordo perché ci tengo, la Radio 3 è l'unica rete in Italia che vi è Silvia Careddo, ha salutato e ringraziato anche Silvia Careddo, il primo flauto dei Wiener Philharmoniker che abbiamo intervistato durante l'intervallo. Soddisfatto e sorridente Christian Thielemann, vedi? Beh, direi che Arturo può essere contento del successo e anche insomma della tenuta di questi brani, anche alcuni un po' inusuali, quindi anche una novità. Belle questa esecuzione, non è il solito concerto di Capodanno danzante, diciamo, esatto. Così c'è questa ricerca analitica del suono, del timbro, mi è piaciuto molto. Adesso la marcia di Radetzky di Johann Strauss padre, l'opera 228. L'ascoltatrice Virginia mi ricorda che nel 2015, quando era lì, Meta diresse il pubblico per sezioni. Ah, ecco.